Blu Radio Veneto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Ben ritrovati a tutti da Mirko Cavallin in studio e di Daicin regia. A differenza di quanto annunciato, ce ne scusiamo, questa sera dobbiamo cambiare programma, ma comunque è una proposta interessante, quella che completa il percorso di ricerca dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova, l'anno accademico 2016-2017 incentrato sul tema Nascere e morire, il mistero della vita. Già vi abbiamo proposto la prolusione del professor Silvano Petrosino nel Dies Academicus che ha dato il via all'anno di studio e la giornata dedicata al nascere e morire nella cultura africana. Il tema che completa questo percorso è simile ma cambia continente, nascere e morire nella cultura asiatica. Pur nella consapevolezza di essere di fronte a un continente, l'Asia, non omogeneo per cultura e storia, si è cercato di cogliere l'originalità delle molteplici culture, tradizioni religiose così diverse tra loro nel rappresentare gli atti iniziali e finali della vita, grazie agli interventi di due autorevoli personalità che proprio con l'Asia hanno rapporti profondi per diversi motivi. E allora sentiremo un indiano e un monaco zen che però non è di origine asiatica. Iniziamo con la relazione di Benedict Kanakapalli, ricercatore e studioso indiano. I giorni della Chiesa. C'è un racconto in una delle Upanishad, nella Katha Upanishad per essere più preciso, del viaggio nel mondo dei morti di un ragazzo chiamato Nachiketas. Questa Upanishad è del V secolo avanti Cristo, ma il suo racconto del viaggio di Nachiketas è già l'adattamento di un racconto più vecchio contenuto nel Taittiriya Brahmana. Il nome Nachiketa significa letteralmente colui che non sa, e la scelta di questo nome qui vorrebbe dire che dunque è uno che desidera sapere. Il motivo dietro questo viaggio resta non del tutto chiaro. Il testo dice che in Nachiketa, che era solo un ragazzo, nacque la fede e conseguentemente era diventato scettico sull'efficacia dei sacrifici compiuti dal suo padre. E vedendo suo padre dare via come compenso ai sacerdoti vacche che erano smunte e infeconde, chiese al suo padre, con un senso di ironia, a chi avrebbe dato via lui stesso suo figlio. Irritato dalla domanda del padre, dal figlio, il padre rispose: «Io ti do alla morte», come per dire, come diremo, noi va al diavolo. Nachiketa, quando arriva nel regno dei morti, Mrityu, la morte stessa in persona, il re e signore di questo regno, è in viaggio. E quando questi torna dopo 3 giorni, rimane sorpreso dalla inaspettata presenza di Nachiketa nel suo regno. E quando poi viene a sapere che lo stava aspettando da 3 giorni in cui non aveva mangiato nulla, e poiché nessuno può permettersi di trattare un brammino in questo modo, quasi per gratificare l'ospite, Mrityu gli propone di scegliere 3 doni. Il primo dono che Nachiketa sceglie è semplice, è di sapere se il suo padre sarà ben disposto nei suoi confronti qualora Mrityu decidesse di lasciarlo tornare nel mondo. Mrityu le risponde che non solo lui lo lascia andare, ma gli assicura anche che il suo padre sarà affabile verso di lui quando lo vedrà rilasciato dal potere della morte. Il secondo dono scelto da Nachiketa sarà quello di conoscere il segreto del sacrificio vedico fatto nel fuoco, che era considerato il mezzo per conseguire il cielo dove uno vive felice come gli dèi. La risposta di Mrityu a questa domanda non è per nulla semplice, ma contiene questa idea. Il luogo dove si compie il sacrificio che procura la felicità celeste, il vero altare del fuoco, questo resta nascosto nell'intimità del proprio cuore. Si tratterebbe qui del concetto della interiorizzazione del sacrificio, un'idea molto cara alle Upanishad in genere, che viene poi esemplarmente sviluppata nelle prime pagine della Brihadaranyaka. Il terzo desiderio espresso da Nachikedas, però, è quello che ha reso famosa la Katha Upanishad. Come il suo terzo dono, Nachikedas chiese a Mrityu di rivelargli il segreto della morte. Cosa succede alla persona che muore? Il brano è interessante non tanto per quello che Mrityu dice poi sulla morte, ma piuttosto per i suoi tentativi di deflettere la domanda. Dice che l'argomento è difficile da comprendere, la dottrina è sottile e quindi prega Nachikedas di non angustiarlo con tale domanda e di esprimere un altro desiderio, chiedere un altro dono equivalente. Quando il ragazzo insiste con la sua domanda dicendo che non ci può essere un altro desiderio equivalente, la risposta di Mrityu è quella di promettergli tutta una serie di cose. Lunga vita, ricchezza, fama, cavalli, figli e nipoti, eccetera, purché lasci perdere la domanda sulla morte. Quando vede che non riesce a smuovere Nachikedas dal suo proposito, Mrityu aggiunge: tutti i desideri che sono difficili da realizzare nel mondo dei mortali, chiedimili pure. Vedi, dice, le ninfe con carri da corsa e strumenti musicali che non si trovano nel mondo. Fatti pure servire da loro, ma non mi interrogare circa la morte. Tieni tutte queste cose per te, replicherà Nachikedas. Sono interessato solo nel sapere che cosa avviene in quel grande passaggio dalla vita alla morte. Se dovessimo aspettare da ciò che viene detto nel resto dell'Upanishad come risposta, un reale scioglimento del mistero della morte, quale evento e esperienza umana nei suoi vari aspetti fisiologici, psicologici, eccetera, certamente resteremo delusi. La questione della morte viene spiegata qui nella sua dimensione prettamente religiosa, facendola rientrare nella questione della salvezza, dell'immortalità, ossia del superamento della morte, in un discorso che gira attorno ai concetti del karma samsara e moksha, vale a dire della reincarnazione e l'emancipazione finale dalla nascita e morte. Il testo sostanzialmente ripropone le idee sulla morte e nascita presenti già nelle altre Upanishad, che diventano poi quelle più comuni nell'induismo. Attraverso il concetto della reincarnazione, le Upanishad trasmettono un senso della relatività della morte e della nascita. La morte che sembra porre fine ad una esistenza non è altro che l'inizio di un'altra. Esistere significa essere coinvolto in un processo indeterminato di nascite e morti in cui i due poli si congiungono. Non c'è in effetti un morire definitivo né un nascere che costituisca un inizio assoluto. Come dice il testo che abbiamo menzionato sopra, l'uomo mortale matura come il grano e come il grano egli rinasce. La relativizzazione della nascita e morte e della vita stessa non è certo anche la loro svalutazione. Il sapere che ogni singola esistenza si colloca dentro un infinito orizzonte di nascite e morti può essere anche visto in una maniera positiva, come ciò che aiuta a vivere la propria vita con un certo senso di distacco e affrontare la morte senza angosce e terrori. Anche il concetto della liberazione finale, il moksha, risulta infine relativizzante nei confronti della nascita e della morte come fatti e esperienze. La liberazione finale, che è frutto di vera conoscenza o conoscenza della vera realtà, coincide in effetti con il riconoscimento che né nascita né morte è realmente vera, se vista dal punto di vista del Brahman, la realtà ultima ed immortale in cui l'uomo scopre la sua vera identità. Colui che veramente conosce, il saggio, dice il testo, né nasce né muore, egli non ha origine a nessuna cosa, né egli non ha origine da nessuna cosa, né egli diventa qualcosa, lui è increato, eterno, immortale. Adesso una parola sul titolo. Se il concetto della cultura indiana era da sempre un concetto alquanto vago, da qualche tempo questo è diventato anche un concetto contestato. La sua vaghezza non va vista in relazione al sostantivo cultura, che sappiamo che ha anche una propria difficoltà, ma piuttosto in relazione all'aggettivo indiana. India è un vasto paese che presenta enormi differenze nel modo di pensare e vivere della sua gente da una regione all'altra e da un gruppo etnico religioso ad un altro. Se è affatto lecito parlare di cultura indiana in forma singolare, non va comunque dimenticato che si tratta in fondo di una cultura composita, multiforme. Ora, la contestazione del concetto della cultura indiana trova una sua giustificazione proprio in questo suo carattere disuniforme. Una delle forme che questa contestazione prende oggi consiste nell'affermare che non c'è una cultura indiana se non una cultura induista, quest'ultima intesa nel senso nazionalistico religioso. Sposata a quale ideologia portante del partito BJP attualmente al governo nel paese, questa idea che la cultura dell'India sia riducibile a quella induista resta inammissibile per varie ragioni, tra cui anche storiche. Dire però che la cultura indiana non è identificabile con la cultura induista non è dire che l'induismo non ne costituisca il componente principale, o che le idee e atteggiamenti religioso-culturali legati ad esso non abbiano sensibilmente influito su quella che noi possiamo oggi considerare come la cultura indiana nel senso generale. A partire dal periodo della composizione delle prime Upanishad, la comprensione religiosa della nascita e morte umana nell'induismo, come pure in altre religioni indiane sorte più o meno nella stessa epoca, come ad esempio nel buddismo e nel jainismo, sarà fondata sulle idee del karma samsara e moksha. Infatti, escludendo ovviamente la parte dell'Asia occidentale, se dovessimo indicare una credenza che ha una accoglienza pan-asiatica, essa è proprio la credenza nella reincarnazione. La reincarnazione, così come è intesa originariamente in queste religioni, non ha il senso di una ricompensa o punizione, ma di conseguenza delle proprie azioni. L'idea dell'uomo che ritorna a vivere fino all'esaurimento di tutto il carico di forze contenute nelle sue azioni compiute in varie esistenze, questa non era però l'idea che si era fatta della vita dell'uomo nel periodo più antico dell'induismo, coincidente con la composizione degli inni contenuti nei Veda, per cui questa forma antica dell'induismo sarà noto come il vedismo. L'inni dei Veda in genere parlano della vita vissuta in questo mondo e della gioia di viverla in compagnia degli altri, godendosi di buona salute, prosperità materiale e una prole numerosa. Rispetto alla questione della morte, gli inni vedici in genere restano discreti. Sono soprattutto i pochi inni funebri del Rigveda che ne parlano. Essi ci fanno capire, prima di tutto, come la vita nel mondo è apprezzata e amata, ma tuttavia considerata non definitiva. Gli inni rivelano un atteggiamento umano di fronte alla morte, in cui tale evento è visto e vissuto con tristezza, ma senza terrore. L'idea della sopravvivenza del morto viene chiaramente indicata negli inni, dove spesso si parla del defunto che si dirige verso il mondo dei padri, Pitriloka. L'inno numero 14 del decimo libro si rivolge così al defunto: procedi, procedi su quegli antichi sentieri che i tuoi antichi padri hanno attraversato. Unisciti con i padri, con Yama, con la ricompensa per i tuoi sacrifici e le tue buone opere, nel più alto dei cieli. Lasciando dietro tutte le imperfezioni, ritorna a casa, fonditi con un corpo glorioso. Questa esistenza nel mondo dei padri è raffigurata come una vita felice e gradevole, anzi è considerata l'esistenza migliore che possa toccare in sorte all'uomo dopo la morte. Il mondo celeste dei padri, secondo quanto dicono gli inni, è un mondo di luce e di pace, custodito e governato da Yama, il primo uomo morto e che ha trovato la via che conduce a questo mondo, dove il morto, reso perfetto, riceve un corpo glorioso ed usufruisce dei meriti, dei sacrifici e delle buone opere o fatte da lui durante la sua vita o da altri per lui dopo la morte. Anche se il termine immortalità, amrda, ha una certa ambiguità nell'uso che ne fanno i Veda, per la vita del mondo dei padri viene senz'altro usata questa parola immortalità. Una preghiera per l'immortalità che troviamo tra gli inni vedici, oltre ad esprimere il desiderio ardente di ottenerla, evoca le delizie che fanno parte della vita immortale nel mondo dei padri. La preghiera recita così: dove c'è lo splendore che non perisce, nel mondo nel quale è posta la luce celeste, in quello ponimi, o Pavamana, purificatore, nell'immortale mondo senza fine. Dove è re il figlio di Vivashvant, Yama, dove è il recinto del cielo, dove sono quelle giovani acque, la fammi immortale. Dove si muove a proprio piacere nella triplice volta, nel triplice cielo del cielo, dove i mondi sono pieni di luce, la fammi immortale. Dove ci sono desideri e brame, dove c'è libero volere e appagamento, la fammi immortale. E dove risiedono contentezze, gioie, piaceri, voluttà, dove sono soddisfatti i desideri del desiderio, la fammi immortale. Come si può notare, il mondo dei padri è immaginato più o meno alla stregua di questo mondo. La differenza tra i due consiste sostanzialmente nel fatto che nel mondo dei padri uno è libero dalle limitazioni alle quali è sottoposto in questo mondo, in quanto il mondo dei padri è visto come un luogo dove non esiste né notte, né tristezza, né delusione di qualunque genere. Ogni desiderio che uno può avere è soddisfatto nel mondo dei padri. Contrapposto al mondo dei padri ci sarebbe anche un altro luogo, un luogo tetro e triste, dove finiscono, dopo la morte, i malvagi, gli uomini falsi e bugiardi. A questo posto fa riferimento una serie di versetti nel Rigveda. Ora, l'immortalità di cui parlano i Veda non è da intendere come l'eternità, che per noi sarebbe semplicemente il suo sinonimo. Immortalità nel senso vedico significa solo vita lunga e piena, ma non una vita che è senza fine. Ora, il concetto dell'immortalità si applica non solo alla vita del mondo dei padri, ma anche alla vita in questo mondo, nonché alla vita nel mondo degli dèi. In verità, neppure gli dèi sono eterni nella concezione dell'induismo antico, sebbene l'attributo dell'immortalità appartenga agli dèi per definizione. Il segreto dell'immortalità degli dèi è la bevanda dell'immortalità amrutà e il culto. Uno dei grandi miti dell'induismo sarà infatti incentrato sulla faticosa ricerca della bevanda dell'immortalità da parte degli dèi assieme agli asura, che sono antidei. L'immortalità di cui uno si gode nel mondo dei padri, anche essa non dura per sempre. Alcuni passi fanno cenno infatti ad una rimorte a cui sono soggetti gli abitanti del mondo dei padri. A quanto pare è questo concetto di rimorte che avrebbe poi portato all'idea classica della reincarnazione dei morti. Ad ogni modo, il segreto dell'immortalità conseguita nel mondo dei padri consisteva nei meriti che uno si era guadagnato durante la sua vita in questo mondo e ancora di più nel sostentamento che uno riceveva dai propri discendenti quaggiù in forma di sacrifici e suffragi offerti per il defunto. La predilezione che la cultura indiana ha sempre espresso per il figlio maschio, che oggi produce anche un vistoso squilibrio dei generi in alcune parti del paese, ha infatti la sua motivazione spirituale qui, in quanto solo un figlio doveva e poteva pensare ai bisogni dei morti della famiglia. Dunque, il senso dell'immortalità riferito all'esistenza nel mondo dei padri si può dire era sostanzialmente legata alla perpetuazione della memoria dei morti da parte dei loro discendenti per mezzo dei riti religiosi quotidiani ed occasionali rivolti a loro. Il concetto dell'immortalità, come abbiamo accennato prima, si applica anche alla vita in questo mondo. Secondo la visuale dell'induismo antico, se in alcuni passi del Rig Veda con l'immortalità si intende in qualche modo la continuazione di se stesso nei propri discendenti, di essere immortale nei propri figli, un altro senso che si dà al termine è quello di vivere a lungo secondo quanto è concesso dal normale corso della natura. Non vedere la morte fino a vecchiaia inoltrata o deferire la morte fino all'impossibile, queste sono idee che danno corpo alla nozione dell'immortalità che si applica alla vita terrena. Una preghiera in questo senso recita così: noi esseri umani soggetti alla morte o figli di Atidi, prolungate benevolmente le vite che ci sono state date da vivere. A volte la lunghezza di vita che corrisponde all'immortalità la si traduce in una cifra, 100 anni. Durante la cerimonia, dopo la nascita di un bambino, è proprio questo che si augura. A questo bambino lunga vita, che il soffio che inspira ed espira non cessi, che i suoi amici, che i suoi nemici non lo uccidano, che il cielo tuo padre e la terra tua madre concordi ti diano morte secondo il corso della natura, che tu possa vivere per 100 inverni mediante i tuoi respiri. I testi vedici guardano la morte con un pacato realismo, specie nell'evento in cui questa morte sopraggiunge in maniera naturale e a età avanzata. Anche così la morte non è amata ma accettata con resistenza. Ma ci sono anche casi di morte che trovano davvero inaccettabili e che sono visti con un senso di terrore. Si tratta delle morti improvvise e precoci. La morte in questi casi è temuta e cercata di tenere lontana da sé e dai propri cari per mezzo di preghiere, riti e scongiuri. L'inno 18 del decimo libro del Rigveda appare in questo senso un testo che ripudia la morte improvvisa che, a quanto pare, ha colto un giovane guerriero sposato. Alcuni versetti di questo inno suonano così: «Vattene, o morte, continua il tuo sentiero separato da quello sul quale gli dèi sono soliti viaggiare. Lo dico a te che hai occhi e odi, non toccare la nostra progenie, non colpire i nostri eroi. Qui erigo questo baluardo per i vivi, che nessuno di questi, nessun altro, raggiunga questo limite. Possono essi sopravvivere 100 lunghi autunni. Alzati, o donna, al mondo dei vivi, orsù, sei distesa accanto ad un uomo dal quale il respiro della vita è partito. Tu eri la moglie di quest'uomo che ti ha preso per mano e ti ha voluto bene». Evidentemente queste idee e atteggiamenti vedici intorno alla morte verranno più tardi sostituite da altre idee e atteggiamenti, quando dal periodo delle Upanishad in poi, ad esempio, la credenza dominante circa la morte sarà quello della trasmigrazione e il desiderio più profondo quello di liberarsi definitivamente dalla nascita e dalla morte. Nonostante ciò, bisogna dire che la maniera vedica di rapportarsi con la morte lascerà una traccia indelebile nella cultura religiosa induista. Anche se le credenze sulla morte saranno cambiate, i costumi e le pratiche rituali relativi alla morte continueranno ad essere quelli di prima, creando in tal modo nell'induismo di oggi una forte dissonanza fra credenza e prassi rispetto alla morte. Nessun discorso sulla morte nel mondo indù può essere ritenuto adeguato se vi manca almeno qualche accenno al famoso testo della Bhagavad Gita. Composta un secolo o due prima dell'era comune, secondo gli esperti, la Bhagavad Gita è un testo che cerca, dal punto di vista dell'evoluzione dottrinale dell'induismo, di tenere insieme le idee del vedismo e quelle delle Upanishad dentro una architettura concettuale teista propria. Quando il tema della morte, non è azzardato dire che è la Bhagavad Gita che ne offre il quadro concettuale utilizzato nell'induismo di oggi e che ispira le reazioni e gli atteggiamenti dei suoi aderenti di fronte all'evento della morte. La Bhagavad Gita, come probabilmente sapete, è un breve poema che racconta il dialogo tra il divino Krishna, l'incarnazione di Vishnu, e il guerriero Arjuna, il quale si appresta a combattere il grande guerra del Parada in cui i suoi avversari non sono altri che i suoi cugini, parenti, maestri, amici di una volta. A Krishna, che è presente nel campo della battaglia in veste di auriga e consigliere di Arjuna, Arjuna espone i propri dubbi, ansie, angosce di fronte alla guerra. Come ogni contesto di guerra è anche un contesto di morte, è la questione della morte propria e altrui che fa da cornice del dialogo tra Krishna e Arjuna. Sebbene il testo presenti Arjuna come uno che si sente paralizzato di fronte al pensiero di dover uccidere i propri cari, leggendo tra le righe si capisce che la sua paralisi è causata non meno dall'eventualità della propria morte. Ad ogni modo, l'affermazione di Arjuna che nella situazione in cui è meglio per lui morire che uccidere i propri cari offre nel testo l'occasione a Krishna di istruirlo sulla questione come, che cosa è la morte, cosa avviene nella morte, come bisogna morire, quale è la migliore maniera di morire e soprattutto quali sono le vie che portano alla salvezza umana. Se da una parte la risposta della Bhagavad Gita ricalca sostanzialmente le idee upanishadiche sulla reincarnazione e sul moksha, e cioè la vita e morte si susseguono a vicenda come il giorno e la notte, la morte fisica non è altro che un passaggio da una ad un'altra vita, lo spirito eterno nell'uomo né nasce né muore, eccetera. Dall'altra aggiunge delle considerazioni nuove ed importanti. Anche se in forma molto sintetica, vale la pena riportare alcune prospettive e idee che emergono dal discorso di Krishna rivolto ad Arjuna. Morire è solo naturale, chi è nato è destinato a morire. Tuttavia, in vita ci sono anche cose peggiori della morte. In questo senso, facendo richiamo al concetto delle caste e al concetto degli imprescindibili doveri connessi ad ognuna delle caste, Krishna suggerirà che per un guerriero di nascita come Arjuna, fuggire dal proprio dovere è disonore, e disonore è peggiore della morte. D'altra parte, suggerisce anche che non c'è morte migliore per un guerriero che morire in guerra. La morte in guerra gli garantisce non solo la vita in cielo, ma anche la fama in questo mondo, che è pure una sorta di immortalità. Al di là del caso di Arjuna, l'idea generale che viene trasmessa dalla Bhagavad Gita circa il senso della morte può essere detta che è questa: morire nell'atto di compiere il proprio dovere, qualunque esso sia, e conseguire la propria salvezza. Che il termine dharma usato nel testo per riferire al dovere significhi più che altro la giustizia, aggiunge una dimensione di profondità al senso della morte che troviamo nella Bhagavad Gita. Il fatto veramente nuovo riguardo alla concezione della morte qui consiste però nel suo essere visto in relazione a Dio e alla sua volontà. Dio che è Dio che controlla la vita dell'uomo e che decide quando e come ognuno morirà e a quale destino dopo la morte andrà ognuno incontro. È questo che Krishna fa capire ad Arjuna nella visione divina che gli viene concessa, la visione descritta nel famoso brano della Teofania contenuta nella Bhagavad Gita. Pur conservando in qualche modo le idee precedenti sulla morte proposta dai Veda e Upanishad, quali la reincarnazione e moksha, il nuovo testo le ridimensiona e modifica. Se da una parte la Bhagavad Gita ammette l'idea della reincarnazione umana, dall'altra esse ne sottrae il funzionamento automatico, come veniva pensato prima, facendola ora rientrare nella volontà e libertà divina. Per la Bhagavad Gita, Dio può liberare l'uomo dai lacci del suo karma con la sua grazia. L'idea stessa della liberazione finale, il moksha, viene interpretata nella Bhagavad Gita non semplicemente come uno stato che resta fuori da ogni possibile descrizione, immaginazione o concettualizzazione, ma come l'unione dell'anima con Dio e la condivisione da parte sua della stessa condizione divina. L'evento della nascita e della morte nell'induismo è accompagnato da un numero di riti, cerimonie, pratiche di cui, mentre alcuni hanno valenza propriamente religiosa, alcuni hanno solo una valenza sociale o culturale. Ciò che colpisce dei riti e pratiche induisti fatti in occasione della nascita o della morte di qualcuno e la loro indipendenza dalle idee e credenze attualmente seguite nella religione. In effetti, mentre le concezioni e credenze sono cambiate, i riti e le pratiche sono più o meno rimasti come erano prima. Anche oggi, i riti e pratiche che accompagnano le più importanti eventi della vita di un indù fanno riferimento alle concezioni che erano prevalenti nel periodo del vedismo. Ad esempio, i vari riti connessi alla nascita, composti di gesti, preghiere e benedizioni, si inseriscono in una visione religiosa vedica, il cui scopo è assicurare al neonato lunga vita, salute, vitalità e vigore, valori estremamente importanti secondo la religiosità vedica. Le principali cerimonie dopo la nascita nell'induismo tradizionale sono chiamati il Jatakarma, che consiste nel depositare sulla lingua del neonato con un cucchiaino di oro, se possibile, una miscela composta di miele, burro e cagliata, mentre si recita l'apposito mantra. Un secondo rito si chiama Namakarana, ossia l'imposizione di nome. Il terzo è il Nishkramana, la prima uscita da casa del neonato in braccio della madre. Oggigiorno molte nascite avvengono ovviamente in ospedali, per cui molte pratiche tradizionali legate al parto sono cadute in disuso. Tradizionalmente il primo parto aveva luogo nella casa paterna della donna. Per il parto veniva preparata una stanza con poca luce. Nel caso di un parto difficile veniva praticata qualche forma di magia imitativa, come il rompere il collo di una urna contenente il grano per farne uscire il contenuto, sistemare un fiore di lotto in un recipiente contenente l'acqua, eccetera. Immancabile dalle cose da fare subito dopo la nascita era quella di chiamare un astrologo esperto nell'oroscopia per presagire il futuro del neonato. Naturalmente, rispetto alla nascita, sono assai di più i riti, cerimonie e pratiche che accompagnano l'evento della morte. Anche nel caso della morte, molti riti e pratiche stanno scomparendo, eccetto quelli che sono ritenuti strettamente indispensabili. È ben nota la prassi induista di cremare il corpo del defunto e di immergerne le ceneri nel mare o nel fiume, possibilmente nel fiume Gange. Meno conosciuto forse è il fatto che né i sannyasi, cioè coloro che seguono la vita ascetica, né i bambini che non hanno ancora ricevuto l'iniziazione religiosa vengono cremati, ma seppelliti. Un motivo teologico soggiacerebbe a questa prassi, mentre i primi sono persone che si sono liberate dalla religione nel senso comune di questa parola, i secondi sono coloro che non hanno fatto il loro ingresso nella religione. Questo ci fa anche capire il vero senso del rito funebre induista, che consiste nel consegnare il corpo del defunto nel fuoco. Nella sua intenzione religiosa, l'atto di consegnare il corpo nel fuoco non è altro che un sacrificio offerto alle divinità e ai padri tramite Agni, il dio fuoco. È un inno funebre del Rig Veda che ci fa capire meglio questo senso profondo presente nell'atto. Si tratta di un inno che parla di due fuochi e due forme di Agni, una materiale che distrugge il corpo e l'altra divina che lo prepara per un'esistenza ultraterrena. E di due sacrifici, uno del corpo del defunto posto sul fuoco e l'altro il sacrificio di un capro offerto a parte. Una libera traduzione di alcuni versetti suona così: non bruciarlo completamente, o Agni, né avvolgerlo nelle tue fiamme, non consumare la sua carne o la sua pelle. Quando l'hai cotto perfettamente, o conoscitore delle creature, allora spediscilo dai padri. Il capro è la tua porzione, brucialo con il tuo calore. Che la tua luce folgorante e la fiamma lo brucino. Con le tue forme gentili, o conoscitore delle creature, trasporta quest'uomo nel mondo di coloro che hanno fatto delle opere buone. Lascialo di nuovo libero ad andare dai padri o Agni, poiché lui è stato offerto come una oblazione in te. Non del tutto compiacente con queste idee sottostanti al rito della cremazione e una serie di riti importanti che vengono fatti in suffragio del defunto, come il praeshita homa, l'offerta per i peccati commessi dalla persona deceduta, e il sraddha, ossia il rito di commemorazione. Ci sono almeno 3 celebrazioni del sraddha accompagnate da apposite offerte di cibo e preghiere, fatte il primo, undicesimo e il 12° giorno dalla morte, il cui fine sarebbe quello di creare ritualmente un nuovo corpo per l'anima del defunto, di prepararlo per il viaggio che lo porta al mondo dei padri e infine di unirlo con i padri. Esistono comunque notevoli variazioni sia nel modo di intendere che nel compiere questi riti mortuari secondo le caste, le comunità e le località. Sebbene lo scopo precipuo di questi riti e pratiche religiosi fatti in occasione della nascita e della morte nel mondo indù sia quello di assicurare il benessere del neonato o del morto nella loro condizione nuova, non è esente da questi riti e pratiche anche un altro scopo che li rende in un certo senso anche ambivalenti. I riti religiosi, in modo particolare quelli mortuari, sono anche destinati ai vivi, per farli accettare la scomparsa di un membro della famiglia e per aiutarli a superare il senso della perdita e del dolore. Sono in questo senso funzionali ad una riabilitazione e reintegrazione delle persone coinvolte in questi eventi della vita da vicino. In caso della morte, i riti sono intesi anche come una sorta di protezione per i vivi. È ancora assai prevalente nel mondo indù l'idea delle anime dei morti costrette a vivere da spiriti affamati ed arrabbiati per la mancanza dei dovuti riti di suffragio nei loro confronti. L'ambivalenza dei riti natali e mortuari si riflette anche nel ruolo attribuitogli di rimuovere l'impurità rituale prodotta dall'evento della nascita e della morte per i familiari. Se l'impurità rituale causata dalla nascita investe piuttosto solo la madre del neonato e può essere rimossa con più facilità, quella derivante dalla morte risulta più estesa e nociva, la cui rimozione necessita corrispondentemente uno sforzo più prolungato e complesso. Concludo. Ciò che ho voluto fare in questo mio intervento era offrire una panoramica delle idee, credenze e pratiche intorno agli eventi della nascita e morte che esistono o sono esistiti nel mondo indù. Tanto la vita umana quanto i due eventi che la rinchiudono dentro un cerchio, la nascita e la morte, restano non meno misteriosi per l'indù che per gli altri. La storia del ragazzo Nachikedas, che avrebbe strappato dalla bocca della morte stessa il suo segreto, ne altera, ne alleggerisce il senso del mistero che circonda la morte umana. Ciò che notiamo nei tanti miti, racconti, speculazioni e pratiche attorno alla realtà della morte è il tentativo di ricercarne un senso, ricavarne un senso, o quantomeno di gestirla in una maniera umana, sia nella ricerca del suo senso, sia nella gestione delle sue conseguenze, la religione costituisce il vero punto di riferimento. In questo senso si può certamente dire che gli indù e gli indiani in genere guardano la morte con un profondo senso religioso. Probabilmente non c'è un'altra religione che ha un luogo, una città indicata per morire, che per l'induismo è Kashi, detto anche Benares e Varanasi, sulla riva del Gange. Termino con una citazione dal libro Benares City of Light di Diana Eck. Kashi promette molto di più di una buona vita. Questa città promette una buona morte. Qui la morte non è, non giunge come una sorpresa. Ogni giorno passano processioni che conducono salme a Manikarnika, il terreno delle cremazioni. Ogni notte i fuochi ardono sulla riva del fiume. Qui la morte non è negata. Forse è per questo che possono dire che la morte non è temuta, ma benvenuta, come un ospite a lungo atteso. Grazie dell'ascolto. Grazie al professor Benedict Kanakapalli, indiano, che è intervenuto come primo relatore alla giornata di studio promossa dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova sul tema Nascere e morire nella cultura asiatica, un continente molto grande con moltissime tradizioni all'interno. E allora andiamo adesso verso l'estremo oriente con la relazione di Maurizio Yushin Marassi, monaco Zen. Vi presenterò una conversazione intitolata La questione del nascere e morire dal punto di vista Zen. Perciò quello che mi accingo a fare è addentrarmi nell'errore. Un errore in qualche misura inevitabile, ma pur sempre un errore. Nei luoghi nei quali si pratica lo Zen vi è una sala, uno spazio particolare, adibito solamente alla pratica dello Zazen, nome giapponese della pratica caratteristica della scuola Zen. In quell'ambiente è sempre proibito parlare, anche quando non ci sia nessuno che stia praticando. Tuttavia, quando si conduce un neofita nella sala dello Zazen, per mostrargli il corretto modo di sedersi, di muoversi nella sala, per prima cosa gli si dice: in questo luogo è severamente proibito parlare. Non è un giochetto Zen, è proprio quello che inevitabilmente accade. Pur essendo un comportamento corretto, non implica per nulla che vi siano delle eccezioni alla regola. Attiro l'attenzione su questo particolare perché quello che oramai da circa 1000 anni è chiamato con la parola giapponese Zen e che in Cina, dove nacque attorno al VI secolo, è detto Chan, non ha una dottrina specifica, non ha un canone scritturale all'interno del quale si possa trovare una definizione e attraverso il quale si possano offrire delle caratteristiche, una storia del pensiero con le sue evoluzioni nei secoli. Questo significa che dello Zen non è possibile parlare, poiché ogni discorso strutturato a quel proposito è arbitrario e quindi suscettibile di censura. Quello che farò oggi sarà quindi un errore, perché si tratta di contravvenire, seppure in modo legittimo, a un dato di fatto. Quando, a partire dal primo secolo avanti Cristo o dal primo secolo dopo Cristo, e gli storici non sono univoci, il buddismo iniziò a riversarsi in Cina, lo fece attraverso un flusso costante di viaggiatori o pellegrini che accompagnavano le carovane lungo la via della seta. Viaggiatori assieme ai quali arrivarono i testi in pali, in sanscrito o in cotanese, che rappresentavano tutte le scuole o tendenze che si erano sviluppate in India nell'arco di circa 600 anni. Una mole di notizie, di indicazioni, di pratiche così vasta e varia da risultare nell'immediato impossibile da maneggiare. Il canone detto pali da solo comprendeva e comprende migliaia di testi. A questo andavano aggiunte le centinaia di opere, per lo più in sanscrito, o più precisamente in sanscrito ibrido, della riforma detta Mahayana, oltre ai componimenti di singole scuole di pensiero, nonché trattati di epistemologia indù o induista, difficilmente distinguibili dai testi delle scuole buddiste più tarde. Molte di queste opere erano relativamente brevi, altre invece molto lunghe. Per fare alcuni esempi, l'Avatamsaka Sutra, o discorso della ghirlanda di fiori, tradotto in cinese tra il III e il IV secolo, da solo è più esteso, contiene più parole, dell'Antico e Nuovo Testamento messi assieme ed è un'opera sola. Il Sutra del Loto, che fu tradotto in cinese già attorno al 160 d.C., consta in oltre 400 pagine di un libro attuale. Oppure la versione estesa della Pragna Paramita Sutra è composta da 100.000 strofe. Occorsero più di 5 secoli per importare, tradurre e ordinare tutto questo materiale. Nel frattempo i cinesi non erano rimasti inattivi. Già verso il V-VI secolo i testi buddisti di origine cinese erano diventate svariate centinaia e la loro produzione non si è mai arrestata. Nel contempo anche le scuole o tendenze di pensiero buddiste già presenti in India cominciarono a svilupparsi in Cina come entità autonome ed insieme a queste nacquero altre tendenze nuove, diverse, di origine autoctona che non avevano il loro corrispettivo indiano. Questa esorbitante abbondanza di testi e di scuole fece sì che per un cittadino cinese dei primi 5-6 secoli della nostra era avvicinarsi al buddismo o anche solo scegliere quale buddismo fosse estremamente complesso. È proprio all'interno di questa situazione che nasce il Chan, oggi detto Zen. Sin dalle origini il buddismo è stato un tipo di religiosità fondata sulla prassi. Tutte le indicazioni, gli insegnamenti che ci giungono dal fondatore hanno alle spalle la raccomandazione: non ti fidare, non ci credere solo perché l'ho detto io, metti in pratica e verifica con la tua esperienza. Un altro modo di dire la stessa cosa la troviamo ripetuta varie volte negli insegnamenti più antichi. Prendete rifugio in voi stessi e non in altro. Così, quando in Cina, tra il V e il VI secolo, il giusto modo di praticare, ossia di mettere in pratica l'insegnamento del Buddha, fu chiaramente compreso e applicato, alcuni si resero conto che l'enorme mole di parole in svariate lingue accumulatesi nei secoli precedenti non era il buddismo, ma il famoso dito che indica la luna. E questo indicatore, pur prezioso, rischiava di frapporsi, oscurando il vero obiettivo, perché concentrava tutta l'attenzione sul dito. Fu così che, probabilmente, all'inizio del VI secolo o verso la fine del V, si consolidò una corrente all'interno della quale non vi era alcun testo di riferimento particolare e che basava la sua continuità soprattutto sul rapporto da persona a persona. La capacità di edificare Buddha con la propria vita e la continuità in questo percorso erano trasmesse e verificate in un processo che avviene e avveniva non sulla base dello studio di testi, anche se lo studio rimane un elemento fondamentale, ma nella condivisione della vita con coloro che hanno ricevuto la medesima formazione dalla generazione precedente. È apparentemente una concezione utopistica della religiosità, soprattutto per noi occidentali, abituati a essere fedeli a una tradizione testuale, senza la quale ci sentiamo persi. Tuttavia, per quanto possa apparire strano, non solo la cosa funzionò, ma sopravvisse nei secoli, sino ad arrivare nei nostri giorni. Storicamente, occorre tener conto che questa operazione di ripulitura, ovvero di passaggio radicale dal dito alla luna, per quanto realizzata in Cina dai cinesi, non fu una loro invenzione. Era invece una visuale correttamente e profondamente radicata in India. E lo era già nell'insegnamento delle origini. Vediamo infatti che nel buddismo antico esiste un termine con il quale i buddisti definivano se stessi. Questo termine è Patisotagamin, che comunemente è tradotto con che va controcorrente, e va inteso sia nel senso di che va in direzione opposta al fluire della vita nei suoi contenuti mondani, sia nel senso di non aderisce ad alcuna dottrina o visuale particolare. Vediamo questa stessa concezione in un testo antico, la Lagadupama Sutta, ovvero il discorso dell'esempio del serpente d'acqua. In questo sutta o discorso, l'insegnamento del Buddha viene paragonata a una zattera costruita per raggiungere l'altra sponda, e vi si dice che una volta che quella sponda è raggiunta, invece di caricarsi la zattera sulle spalle portandola con noi, la zattera va abbandonata perché è esaurito il suo compito. In modo più esplicito, questo significa che quando il senso del Dhamma o Dharma è realizzato nella prassi, questo comprende anche lasciare andare il Dharma, l'insegnamento. Comunque, quello che ci interessa qui è registrare che anche nel buddismo delle origini il senso profondo del fatto religioso e la sua vitalizzazione nella vita quotidiana è l'unica cosa che conta e che deve essere trasmessa. La zattera rappresenta anche la cultura testuale, che per quanto importante è e rimane secondaria o al servizio rispetto a quello che ho definito il fatto religioso. Tornando in Cina, vediamo che il contenuto di quella trasmissione, un contenuto privo di verbalizzazioni e di rappresentazioni concettuali, a poco, a partire dall'VIII, IX secolo, verrà definito Chan, e poi, più o meno dall'anno 1000, in Giappone prenderà il nome di Zen. Parallelamente, però, nella pubblicistica letteraria cinese, a partire dalla fine del VI secolo, iniziò una sorta di caratterizzazione dell'epopea del Chan, ricostruendo a posteriori episodi e storie in modo da formare l'apparenza o l'involucro celebrativo di vicende che, invece, quando le cose si svolsero seriamente, accaddero in modo silenzioso e per nulla appariscente. La costruzione letteraria di queste leggende, estremamente dense di significato, a ritroso giunge lontanissimo. Arriva infatti a modificare o a integrare addirittura la biografia del Buddha, arricchendola di episodi che lo rappresentano, in atteggiamenti tali da farne il vero iniziatore della scuola Chan, e forma un intrico molto complesso che solo recentemente è stato dipanato dagli storici. Notiamo comunque che questo tipo di falsificazioni storiche, estremamente comune in tutta la letteratura religiosa cinese, è uno stravolgimento della verità solo in termini convenzionali. Il punto importante non è se quel mattino di 2500 anni fa il Buddha fosse veramente sul picco dell'avvoltoio e dopo un lungo silenzio abbia solamente mostrato un fiore alla folla, scambiando poi uno sguardo d'intesa con Mahakashyapa. In un mondo che presenta evidenti analogie con le parabole, ciò che conta è il significato convogliato da quei racconti, ossia che cosa il racconto medesimo, nella sua finzione letteraria, voglia e riesca a trasmettere. Quei racconti sono quindi da valutare non secondo la loro verità storica, ma quali insegnamenti religiosi, secondo la loro efficacia nel raggiungere l'obiettivo che costituisce la ragion d'essere di quel movimento religioso. Questo significa che la certificazione di autenticità di ogni insegnamento buddista non è data dalle certezze storiche, bensì dalla verifica all'interno della propria esperienza vitale del senso dell'episodio narrato. In quest'opera di edificazione fantastica, i cinesi sono stati formidabili. Hanno costruito a posteriori, anche 1500 anni dopo i presunti fatti, una storia dello Zen con una trasmissione ininterrotta a partire dal Buddha, perfettamente confacente a quella tradizione apofatica. Una storia certamente più interessante e anche forse più significativa di quanto lo siano stati i fatti medesimi, che, vivendo di una riservata e serena quotidianità, non costituivano nulla di speciale, ossia nulla che valesse la pena raccontare. Evidente quindi che se volessi parlare del tema che mi è stato proposto, ossia del nascere e morire dal punto di vista dello Zen, magari basandomi sulla cosiddetta letteratura Zen, sarei un mentitore per vari motivi. Prima di tutto, non esiste una letteratura dello Zen. Non solo, ma laddove questa esiste è solitamente un falso costruito a posteriori. Ed infine non esiste nemmeno una concezione, un pensiero che si possa legittimamente definire un punto di vista Zen. 2500 anni fa, quando il buddismo nacque in India, la credenza nella rinascita di un Atman o anima personale in vite successive condizionate dall'acido karmico di quelle precedenti era un dato di fatto. Inevitabilmente, durante la sua inculturazione indiana, anche il buddismo assorbì questa certezza, ma in modo più o meno marcato a seconda delle varie scuole. In realtà il Buddha aveva parecchio complicato le cose, perché nel prendere le distanze dall'ortodossia vedica aveva negato la possibilità di affermare un'esistenza ontologica eterna di un'anima personale. Infatti, in tutta la predicazione del Buddha raccolta nel canone antico non troviamo mai neppure accennata una dottrina della rinascita. È piuttosto in seguito, soprattutto nella scuola del Mahayana detta Yoga Achara, e in particolare nel V secolo, ovvero 800 anni dopo il Buddha, che negli scritti di Asanga e Vasubandhu troviamo una dettagliata spiegazione del meccanismo della rinascita, ma a prescindere dall'Atman, come meccanismo biologico potremmo dire. Tuttavia, a parte nel buddismo Vajrayana, ovvero quello che comunemente chiamiamo buddismo tibetano, il tema non ha mai avuto particolare presa tra i praticanti, se non a livello popolare. E il motivo è legato al pragmatismo buddista. Se consideriamo che all'interno del buddismo il problema è solo, per così dire, la dissoluzione della sofferenza, del vivere e del morire, non ha particolare importanza se le condizioni di nascita in questa vita siano determinate dal karma accumulate nelle vite precedenti oppure no. Perché la soluzione proposta dal Buddha è efficace, funziona ed è definitiva, sia che tale meccanismo funzioni all'interno di una sola vita, sia che si sviluppi moltiplicato in molte vite. Inoltre, siccome nell'insegnamento del Buddha non si afferma un Atman personale di natura eterna e perciò divina di cui preoccuparsi, la credenza nelle rinascite può essere messa da parte senza particolari problemi. Tuttavia, nascendo, abbiamo ricevuto la vita e con essa la certezza della morte. Per cui, laddove lo si percepisca, un problema da affrontare esiste, anche se è comunque un problema di vita e non di morte. E qui troviamo una contraddizione inevitabile con il tema dato. Nel buddismo Zen, se non a livello popolare, l'unico elemento che si prende in considerazione del binomio vita-morte è il primo, ossia la vita. Quindi, quando si considera il morire, ci si concentra su quel morire che avviene in vita e che è un'anticipazione dell'ultimo, quello che ci stacca definitivamente dalla vita e ci introduce nella morte. La consapevolezza della morte, ovvero della finitudine temporale, è una delle attenzioni più importanti nella pratica buddista e perciò nello Zen. La liberazione dalla sofferenza, la maestria nel vivere l'insegnamento del Buddha che permette questa liberazione, non è facile da realizzare, perciò non abbiamo tempo da perdere. E non abbiamo tempo da perdere proprio perché il tempo non è in mano a noi. Il fatto certo è che all'improvviso, senza che sia possibile sapere quando, in un breve momento dovremo lasciare tutto. Perciò il lasciare in tutte le sue accezioni, nel quale consiste la pratica fondamentale del buddismo, acquista un particolare significato nel momento nel quale non solo lo si pratica per vivere, ma ha sullo sfondo la morte. La vita nella pratica è vita pronta alla morte, o se approfondiamo, è vita nella quale la morte non ha più nulla da togliere, se non il corpo, ultimo legame con il mondo dei vivi. Questo, ossia la certezza di dover lasciare ogni cosa, ci porta ad esaminare quel processo di sviluppo interiore che comunemente chiamiamo buddismo da due punti di vista: quello della modalità in cui viene compiuta, realizzata la pratica, e allo stesso tempo che cosa si presenti agli occhi dello spirito di quel nascere e morire che sperimentiamo in vita. La pratica, detta in giapponese zazen, che letteralmente significa sedersi nello zen, ha due aspetti, la forma fisica e la forma interiore. La forma fisica consiste nello star seduti a livello pavimento, solitamente su un cuscino a gambe incrociate con la schiena diritta, le mani con una postura definita e posate sui talloni, lo sguardo rilassato e la respirazione spontanea e silenziosa. È una forma molto antica, nata in India e che con ogni probabilità risale ad almeno 4.000 anni or sono, ossia ad un periodo e ad una cultura precedente all'arrivo degli Arii o Aria, le popolazioni iraniche a cui si attribuisce l'importazione dei Veda nel subcontinente indiano. Questa postura, assieme ad altre sviluppatesi successivamente, fu utilizzata nel millennio precedente la nascita del buddismo dagli asciti della foresta, ossia da coloro che nella traduzione delle Upanishad praticavano e praticano tuttora una via di salvazione tramite la realizzazione della perfetta conoscenza. Una via che si fonda sul primato dell'ascesi, della rinuncia al mondo, della purezza in una vita di castità, mendicità e itineranza. Nel VI secolo a.C., forse nel V, gli storici di nuovo non sono univoci, il Buddha si unisce alle comunità della foresta, pratica con loro per alcuni anni e apprende quella postura fisica, che a quel punto ha già una storia millenaria durante la quale ha subito continue raffinazioni. È la forma nel quale il corpo diviene un tempio all'interno del quale è possibile edificare la liberazione dalla sofferenza connessa alla finitudine dell'uomo. Per quanto riguarda invece quella che ho definito la forma interiore, possiamo seguirne la storia direttamente a partire dal Buddha. Con ogni probabilità anche la forma interiore ha una genesi più antica, ma fu il Buddha a identificare in quella e solo in quella la dinamica interiore che conduce alla e mantiene nella liberazione dalla sofferenza. Per chiarezza, la sofferenza, dolore o più propriamente disagio di cui parliamo, nel buddismo è rappresentato in 6 esempi paradigmatici. Il dolore di vedere e sentire le proprie energie, le proprie possibilità vitali esaurirsi nella vecchiaia. Il terrore e il dolore che nascono dal rifiuto della nostra e dell'altrui morte, l'angoscia della malattia, il dolore della perdita, il dolore del non ottenimento e il dolore di dover convivere con persone o situazioni a noi sgradite. Entriamo ora nel dettaglio di quella che abbiamo definito forma interiore. Apparentemente praticare Zazen, la pratica fondamentale dello Zen, è una cosa molto semplice perché tutto ciò che è richiesto è stare semplicemente seduti, assumendo e mantenendo col nostro corpo la forma che vi ho descritto. Tuttavia, accade naturalmente che appena la campana che segna il tempo della seduta è suonata, ci accorgiamo che stiamo già pensando. Poiché l'intento è di stare semplicemente seduti, non seguiamo quel pensiero, ci svegliamo al nostro presente, raddrizziamo nuovamente la schiena e quasi subito, oppure dopo un poco, cominciamo nuovamente a seguire un pensiero. Appena ce ne accorgiamo, si tratta di compiere un delicato e chiaro sforzo di volontà e uscire dal nuovo sogno ad occhi aperti. E poi ancora e ancora occorre proseguire così, senza cedere alla tentazione di elaborare i pensieri che sorgono e senza inventarne nuovi. L'obiettivo però non è impedire il sorgere dei pensieri. Quello che è veramente importante è tornare ad essere svegli ogni volta che ci perdiamo nei sogni. Questo è Zazen, ossia una serie in successione di tempi fatti di completo lasciare. Se infatti consideriamo analiticamente il nostro stare, poiché non c'è nulla da toccare, da udire, da odorare, da vedere e da assaporare, i 5 sensi sono privi di oggetto. Le gambe sono incrociate, per cui è una rinuncia alla mobilità. Durante lo zazen si tace, nel silenzio, per cui anche la facoltà del linguaggio è abbandonata. Se poi osserviamo quello che accade dentro di noi mentre siamo seduti in quella forma fisica, vediamo che anche la postura interiore consiste nel lasciare o nel cessare di afferrare. Dentro di noi sorgono ricordi, legati ai quali nascono emozioni, da cui speranze, desideri, oppure progetti e futuri non ancora vissuti, valutazioni morali sul bene e sul male delle nostre e delle altrui azioni, e poi fantasie sessuali o semplicemente le parole di una canzone. Durante lo Zazen tutta la nostra vita materiale, intellettuale ed emotiva sorge continuamente dentro di noi, ma la direzione, la modalità che abbiamo scelto è puntata, mirata dall'altra parte. Non è verso la diversione, ma verso una continua conversione. E così trasformiamo questo continuo sorgere in un continuo cessare. Il punto interessante in tutto questo è l'obiettivo, la meta del nostro convergere. Da un lato c'è tutta la nostra vita, i legami familiari o quelli con la nostra comunità, le speranze, i sogni, l'amore per la vita, il timore della morte, della vecchiaia, della malattia. Dall'altro lato non solo tutto questo non c'è, ma non c'è neppure qualcosa. Non c'è una condizione, un oggetto, un elemento pensabile, immaginabile, ottenibile. Ci troviamo in una sorta di terra di nessuno, un dove infinito nel quale vita e morte si incontrano e si invertono, si scambiano i ruoli. Vediamo allora come e perché avviene questo scambio, questa inversione tra vita e morte. Se chiamiamo nascere il sorgere del nostro mondo, quel momento nel quale le cose, le persone cominciano a entrare nella nostra coscienza e danno inizio alle relazioni, a cui consegue tutto quell'apparato di sentimenti, emozioni, gioia e dolore, attrazione e ripulsa, allora potremo chiamare vivere il lasciarci riempire da tutto questo e poi intervenire attivamente nel gioco, spostandoci da un argomento all'altro, da un aspetto all'altro della nostra vita. E poi potremo chiamare morire lo staccarci improvviso dal nostro mondo, il lasciarlo, abbandonarlo senza rimpianti e senza strascichi nel quale consiste lo Zazen. Tuttavia, ogni volta che facciamo ciò, ossia che ogni volta che nasciamo, viviamo e consensualmente moriamo, noi non scompariamo nel nulla. Nel fondo senza fondo, nell'abisso del vuoto della non manifestazione, non c'è l'annullamento totale. Invece noi, in quanto nome e cognome e ruolo e identità, siamo morti o moriamo mille, un milione di volte. Questo sì, non c'è scampo per ciò che è relativo ed è parte del mondo. Questa è la durezza, la grande fatica dello Zazen, di cui raramente si parla. E in questo scomparire c'è rinascita, ovvero una nuova nascita. Per questo parlo di inversione di ruoli tra morte e vita. Occorre attenzione però nel considerare questa inversione. Non si tratta di tirare un sospiro di sollievo pensando, allora riesco a salvare qualche cosa. La rinascita e la vita conseguente di cui parlo non è su quel piano, non ha nulla di possedibile, di ottenibile, di spendibile. Ecco, questo è tutto, almeno per ciò che riguarda l'esperienza concreta. Vediamo ora come questo aspetto sia stato trattato dalla tradizione. Prima, in quella del buddismo delle origini, nel cosiddetto buddismo dei Nikaya, ovvero del canone Pali, poi nello sviluppo del Mahayana cinese, quello dove nasce anche il Chan, o Zen, che Dio si voglia. Nel canone Pali è registrato un testo molto bello, tra i tanti, appartenente alla grande tradizione orale indiana, un testo che nella sua struttura funzionale è molto più antico del buddismo. Si tratta del Dhammapada, un titolo dal senso articolato, complesso, che semplificando qui traduciamo con il cammino religioso. Il testo, messo per iscritto per la prima volta attorno al III secolo a.C., consta di un compendio di brevi massime formate da stanze di 4 o 5 versi. Questa forma poetica appartiene alla tradizione dell'India antica che per millenni è stata unicamente orale e dona al testo un ritmo caratteristico adatto alla memorizzazione. Molte strofe di questo sutta le troviamo già nell'antico poema epico Mahabharata. Appartengono dunque a una più vasta tradizione sapienziale che, perdendosi letteralmente nella notte dei tempi, possiamo definire universale. Vediamo per esempio la massima numero 5, che recita: L'odio non può sconfiggere l'odio, solo essere pronti all'amore lo può fare, questa è la legge eterna. Ma vi ho detto che la consapevolezza della morte ha una particolare importanza nel modo di affrontare la vita caratteristico del buddismo. Infatti, nel Dhammapada sono oltre 30 le massime che si occupano della morte da diverse angolature. Così al numero 6 troviamo: chi è litigioso dimentica che moriremo tutti. Non ci sono litigi per il saggio che riflette sulla morte, che costituisce un esempio di come la consapevolezza della nostra fine diventi la base per una diversa scala di valori. Però abbiamo messo l'accento su quella che abbiamo chiamato l'inversione tra la morte e la vita, e così è a questa che ci rivolgiamo. La pratica buddista, come vi ho mostrato, ha le caratteristiche di una morte in vita, e se questo cammino viene percorso correttamente, ovvero per sempre, quella che dal punto di vista del mondo è morte, abbandono, scomparsa, vista dall'interno della pratica diviene una continua nascita. Introducendo un linguaggio che echeggia temi giovannei, possiamo parlare non di nascita dallo spirito, che farebbe pensare a un qualche cosa che si origina nuovamente in questo mondo, ma di rinascita dello spirito o nello spirito. Questa esperienza vitale che genera la scomparsa della sofferenza del vivere e che nel tempo concreto dei nostri giorni porta a vivere la morte in vita fa parte da sempre del buddismo. Per questo la troviamo in numerosi passi del Dhammapada, il testo di cui vi parlavo prima, in cui vi si allude o la si affronta direttamente. Nella strofa 21 troviamo: la pienezza mentale è la via verso il senza morte. La distrazione, la spensieratezza è un sentiero di morte. Chi è consapevole è totalmente vivo, chi è distratto è come fosse già morto. Qui è evidente come quell'inversione sia già data per scontata. La vita secondo il mondo, sintetizzata in distrazione e spensieratezza, è detta morte, e viceversa. Quella che vista dal mondo pare morte è detta essere vita piena e contemporaneamente cammino o via verso il senza morte. Identificando quindi il cessare di questa vita con la pienezza dello spirito e l'eternità. Abbiamo poi la strofa 46, dove troviamo: ricorda che il corpo è fugace, come la schiuma del mare, un miraggio. Il fiore della passione sensuale nasconde un artiglio, ricordalo, e passa oltre il regno della morte. In questo caso la vita secondo il mondo è dipinta solamente come morte, invitando a passare oltre. Anche questo è quindi un richiamo al cammino verso il senza morte. Nella strofa 170 troviamo un'affermazione ancora più esplicita. Vedi il mondo come insostanziale, fugace, una bolla, illusorio, un semplice miraggio. Il re della morte non riuscirà a scovarti. Di fatto qui si sostiene che la morte in vita coincide con la vita eterna, ovvero che quel morire che si vive durante la pratica, da un lato è vero morire, dall'altro è vera vita, inattaccabile dalla morte. Lasciamo il Dhammapada, facciamo un salto di un millennio e vediamo ora un esempio di come la stessa esperienza sia stata trasmessa all'interno del Chan, quindi in Cina. Notiamo subito come, secondo lo stile cinese, l'aspetto che in Occidente definiremmo psicologico è preponderante. In una testimonianza di un praticante del Chan troviamo: quello che è sempre stato presente è l'ospitante, ma per nostra incuria, distrazione, dabbenaggine, l'ospite diviene l'ospitante. Ovvero, ciò che sorge conseguentemente è l'ospite, ma le sue contaminazioni, pensieri, desideri e passioni nascondono quello che è sempre stato lì, occupando il suo posto. Così l'ospite diviene l'ospitante. Zazen è far sì che le cose siano al loro posto, tornino al loro posto. Qui l'ambiente è abbastanza rarefatto, perché è data per scontata una frequentazione con la pratica e quindi con quello che è chiamato l'ospitante, in modo che sia possibile distinguerlo dall'ospite. Senza questa esperienza o consapevolezza, decifrare la frase è difficile, anche se dice le stesse cose che abbiamo già trovato nel Dhammapada, seppure con un diverso linguaggio. Infatti, quello che nel Dhammapada era la vita secondo il mondo, ossia la morte, qui è l'ospite, che dilaga, prende il posto dell'ospitante. Quello che nel Dhammapada appare alla morte del mondo, detto il senza morte, qui è quello che è sempre stato presente, ovvero l'ospitante. Infine, vediamo alcuni brani di un testo cinese del VI secolo, un'opera fondamentale per tutta la cultura religiosa dell'Asia orientale. Si tratta del Dacen Chi Shin Lung, titolo da me tradotto con Discorso di risveglio alla fede secondo il veicolo universale, che a seguire per semplicità chiameremo il discorso. È un'opera quasi sconosciuta al grande pubblico, che però da 1500 anni fornisce il sostrato sapienziale a tutte le scuole buddiste cinesi, coreane, vietnamite e giapponesi, ovvero a tutto il buddismo dell'estremo oriente, compresi quindi il Chan e lo Zen. Questo successo dipende dal fatto che il discorso riesce in modo estremamente sintetico a compendiare sia la visuale espressa nei principali sutra indiani della riforma Mahayana, sia l'utilizzo di un registro culturale e linguistico proveniente dall'argilla della sapienza cinese, la quale, avendo dato forma a tutte le civiltà dell'Asia orientale, lo trasforma di fatto nel principale testo di inculturazione del buddismo Mahayana in tutto l'estremo oriente. In questo testo ci si occupa soprattutto di quello che succede dentro di noi durante la pratica, durante il tempo nel quale siamo seduti in silenzio e durante il tempo della vita visto, inteso o guardato dal punto di vista della pratica. Per intendere bene di che cosa stiamo parlando, occorre immergersi direttamente in quel che siamo prima che sorga qualsiasi pensiero, idea, immaginazione, emozione o ricordo. Nel discorso si dice che il risveglio, o più volgarmente l'illuminazione, è risvegliarsi alla sorgente della mente. Questo significa che è possibile assistere alla nostra nascita. Non alla nascita biologica, ovviamente, ma al nostro ingresso in questo mondo con tutte le nostre facoltà. Significa che è possibile imparare a identificarsi con l'ospitante e non più con l'ospite. Nel discorso troviamo infatti i risvegliati in un istante di pensiero sono in unione con se stessi, diventano coscienti del primo sorgere della mente. In unione con se stessi è un altro modo per dire identificarsi con l'ospitante. E poi ancora, se qualcuno raggiunge il non pensiero, conosce la mente nelle forme del sorgere, esistere, mutare e cessare. La forma è molto sintetica, ma con un poco di riflessione possiamo comprendere che non pensiero è un altro modo ancora di definire l'ospitante, quello che poco fa abbiamo chiamato se stessi. E da quel punto di osservazione è possibile vedere la vita, tutta la vita, perché sorgere, esistere, mutare e cessare in modo estremamente sintetico rappresentano tutta la vita. Il testo non lo dice, ma è naturale conseguenza di quanto sopra il fatto che per poter vedere la vita dal suo nascere al morire dobbiamo collocarci fuori di essa. Come conclusione possiamo dire che vivendo l'insegnamento del Buddha secondo l'angolatura proposta dallo Zen, occuparsi del nascere e morire e occuparsi fattivamente di ciò che appare morire, ma che l'esperienza e la tradizione portano a descrivere come il vero nascere. Poi, se questo vero nascere o vero vivere sia la vita eterna, io non sono in grado di dirlo. Con una battuta zen concludo dicendo, però, se ci incontreremo nuovamente tra qualche millennio, forse potrò essere un poco più preciso. Grazie. Giorni della Chiesa. Questo era il monaco Zen Maurizio Yushin Marassi, intervenuto insieme al professor Benedict Canacappalli, indiano, sul tema nascere e morire nella cultura asiatica. La seconda giornata di studio, dopo quella dedicata all'Africa, che ha completato il percorso di ricerca dell'anno accademico 2016-2017 dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova sul tema nascere e morire, il mistero della vita. Ringraziamo l'Istituto per la condivisione della registrazione audio e di Dai Cine Regia. Voi tutti per l'ascolto, da Mirko Cavallin, buon proseguimento con Blu Radio Veneto. I giorni della Chiesa, eventi e incontri della Diocesi di Padova.